Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, benvenuti, sono le 12 e 11 minuti, appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di alcuni risvolti del decreto del fare di questo governo e di quanto appunto accade per Equitalia in particolare. Cosa cambia sulle rate? Il tetto era già stato aumentato, noi entreremo un po' più nello specifico nella rateazione e cercheremo un po' di capire come cambia e come i contribuenti devono e possono comportarsi. Lo faremo come sempre con degli ospiti. Allora vado subito a salutare Tonino Morina, dottore commercialista ed esperto in materia fiscale per Il Sole 24 Ore. Buongiorno, benvenuto. A lei buongiorno a tutti. Siamo in attesa di collegarci anche con Antonio Iorio, che è esperto in materia fiscale per Il Sole 24 Ore. Tra pochissimo anche lui sarà con noi e sarà pronto a rispondere a tutte le vostre domande, i vostri quesiti. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Prima però andiamo a dare un altro rapido sguardo su quanto sta accadendo sui mercati. Lo dicevamo anche in corso di giornale radio, oggi è una giornata piuttosto nervosa e frenetica per i listini, volatilità è la parola d'ordine, c'è grande attesa per quanto verrà fuori dal 2 giorni di meeting della Fed. Questa sera alle 20 la decisione sui tassi, alle 20:30 la conferenza stampa di Ben Bernanke e da lì le indicazioni sulla politica monetaria che, come sapete e come sappiamo tutti, è stata molto espansiva fino a questo momento, potrebbe cambiare qualcosa, staremo a vedere. I listini restano in attesa. Questa mattina la seduta per quel che riguarda le piazze asiatiche si è chiusa contrastata con il Nikkei in progresso dell'1,83%, grazie soprattutto alla debolezza dello yen. Tokyo e Hong Kong, per chi ce lo chiede, ha chiuso con una flessione poco superiore al punto percentuale. Tornando a Piazza Affari, il FTSE MIB in questo momento guadagna uno 0,18%, Parigi guadagna uno 0,16%, Francoforte mezzo punto, poco al di sopra della parità resta Londra. E sul listino principale a Milano il titolo migliore resta Mediaset, che guadagna oltre 4 punti. Finmeccanica guadagna il 2,18%, questo grazie soprattutto alle nuove commesse annunciate, Diasorin più 1,8%, Tenaris guadagna l'1,77%. In fondo al listino invece troviamo Azimut, che cede poco più di 2 punti, la Popolare di Milano cede 1,5 punti, la Popolare dell'Emilia Romagna cede l'1,42%, Monte dei Paschi l'1,27%. Sui cambi euro su dollaro 1,33,89 in questo momento, e quindi lo dicevamo oggi in realtà la grande attesa è per quanto si dirà questa sera a mercati chiusi ovviamente per l'Europa, con Wall Street ovviamente ancora aperta, quanto si dirà al termine dell'esecutivo della Fed. Noi lasciamo i mercati, ci concentriamo sul tema di oggi. Intanto io saluto anche Antonio Iorio che ci ha raggiunto telefonicamente. Buongiorno, benvenuto. Vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Il decreto del fare, le rate a Equitalia, che cosa cambia? La nostra scheda. Con il cosiddetto decreto del fare, approvato sabato dal governo, sono in arrivo anche alcune novità che riguardano il pagamento delle cartelle del fisco. E a quanto pare si tratta di buone notizie, che potrebbero rendere la vita un po' più semplice ai contribuenti. Diventa infatti più facile la restituzione rateale a Equitalia, che già con una direttiva del 7 maggio aveva fatto qualche passo verso i cittadini che hanno un debito nei confronti dell'erario. Il mese scorso era infatti salita da 20.000 a 50.000 euro la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata, senza ulteriori documenti che attestino una difficoltà economica. La principale novità introdotta dal decreto di sabato è il sostanzioso aumento, sempre mantenendo questo tetto, del numero di rate possibili, che passa da 72 a 120. Resta uguale la cifra minima per l'importo di ciascuna rata, pari a 100 euro. In base alle ultime novità, l'agente della riscossione potrà quindi concedere, su richiesta del contribuente, una nuova ripartizione che estenda il numero di rate pattuite fino ad un totale di 120 mesi. Resta possibile chiedere l'applicazione di un piano a importi crescenti e non cambiano le scadenze e le condizioni. Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate. Il fisco mostra quindi un volto più umano e si spera che un numero maggiore di italiani potrà tirare un sospiro di sollievo. Con rate più leggere e anche con la possibilità di tornare a partecipare a gare e appalti di lavori, forniture e servizi. Chi paga a rate, infatti, non è più considerato inadempiente. intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Prima di coinvolgere i nostri ospiti e a riprova degli sforzi che si cerca di fare per rendere Equitalia più umana, così come si usa dire ultimamente, voglio leggervi anche le ultime affermazioni in merito del ministro Saccomanni che risalgono a lunedì scorso. Saccomanni stava parlando di lotta all'evasione fiscale, un tema che non si può assolutamente sottovalutare, che non va allentata, ha detto il ministro, e poi ha avvertito: ci vorrà sempre più attenzione in questo campo perché anche la lotta all'evasione può e deve tener conto delle esigenze dei contribuenti in difficoltà, e quindi un occhio particolare anche a tutti coloro che sono in difficoltà e lo sono anche nei confronti proprio di Equitalia. Allora, cominciamo ad entrare un po' più nel dettaglio, perché poi ovviamente il nostro compito è quello di aiutare proprio praticamente chi ha dei problemi con Equitalia, con le cartelle, con la dilazione, con le rate da pagare. Abbiamo detto, nella scheda ve lo ricordava, che questa possibilità di dilazionare i pagamenti sale da 72 a 120 rate mensili. Allora io voglio subito coinvolgere il Tonino Morina, dottore commercialista, e chiedere un po' se questa, diciamo, questa ulteriore dilazione può davvero diventare un po' una chiave di volta per il contribuente che si trova in difficoltà con un debito di una certa cifra, perché comunque la soglia massima, lo ricordiamo, è 50.000 euro. Ma sicuramente sarà agevole per il cittadino che ha debiti fino a 50.000 euro chiedere questa rateazione, perché 120 rate mensili significa 10 annualità. Naturalmente a questo dobbiamo aggiungere che, come è stato titolato dal Sole 24 Ore, non sarà espropriata la prima casa diventa impignorabile, sì. Insomma, ci sono tanti strumenti a favore dei cittadini e si decade dalla rateazione, che ripeto può essere fino a 10 anni, solo a condizione che prima era due rate non consecutive, sì. Ora addirittura si parla di 8 mancati pagamenti, quindi fino a 8 rate non pagate, fino a 7 rate non si decade, a partire dalla 8 rata si decade anche se non consecutive. Tra l'altro, appunto, dottor Morina, mi corregga se sbaglio, non devono essere per forza consecutive queste 8 rate mancate, diciamo. Esattamente, possono essere, diciamo così, diverse, ma nell'intero piano di rateazione, sì. Uno può, se salta 7 rate, ancora non decade dalla rateazione. Peraltro c'è da dire questo, che c'è il cosiddetto ravvedimento, la possibilità di rivedersi se uno paga in ritardo. Insomma, veramente sia il legislatore, sia Equitalia e tutti gli agenti della riscossione, sì. Come avete detto benissimo nella scheda, stanno cercando di agevolare i pagamenti rate, perché soldi ce ne sono pochi. Addirittura si parla di soppressione dell'aggio. Sappiamo che cos'è l'aggio, cioè il corrispettivo che spetta all'agente della riscossione, che dal 1 gennaio 2013 è stato abbassato all'8% sì. Per i ruoli emessi dal 2013, ma addirittura potrebbe scomparire ed essere sostituito da una restituzione di spese sostenute dall'agente della riscossione. Insomma, altro che agevolazione, insomma, si fa veramente quello che si può nelle difficoltà che ci sono a livello economico, a livello mondiale e certo. Italiano. Però io, ovviamente parlando precedentemente alla trasmissione con entrambi i nostri ospiti, avevo contattato il dottor Iorio e Antonio Iorio mi aveva detto sì, benissimo, perfetto, questi sono sicuramente dei provvedimenti che aiuteranno, però attenzione perché qualche, come dire, qualche sorpresina non proprio gradita ci potrebbe essere, c'è, giusto? Ma le sorprese, le persone, quello che conta in queste situazioni, quando si parla di Equitalia, non dobbiamo dimenticare, come sappiamo, Iorio sa benissimo, meglio di me, che Infatti, l'agente della volevo fare riscossione. intervenire, ecco, il dottor Iorio perché Ecco, proprio con lui ne avevo parlato. Lui mi aveva detto: attenzione esatto, perché ma qualche l'agente della piccola. riscossione interviene dopo che l'interpositore, può essere l'agente l'agente delle entrate, può essere il comune, chiede dei soldi al cittadino. Poi, se qualcuno si comporta male, ne Certo. risponde personalmente, voglio dire. Antonio Iorio, però con lei avevamo proprio detto, cioè, Sì. magari c'è qualcosa che Ma guardi, poteva essere fatto meglio, forse, ci si secondo poteva me sì. pensare, ecco. Secondo me sì, perché qui dobbiamo essere obiettivi fino alla fine. Allora, il primo problema è questo, perché intervenendo sulla rateazione da cartella, Sì. questa agevolazione, posto che di portare eventualmente in presenza dell'insolvenza, della accertata insolvibilità del contribuente e quant'altro, come dice la nuova norma, riguarda tutti coloro che non pagano le cartelle. Quindi va detto per onestà che non riguarda soltanto il caso di cui tutti ci lamentiamo e che è quello che è veramente meritevole di sostegno anche dello Stato, cioè il caso dell'imprenditore il quale non paga le imposte pur avendole dichiarate perché non ha i soldi, perché Sì. magari preferisce di pagare i dipendenti. Questa rateazione riguarda anche, per essere chiari, perché dobbiamo essere chiari, Certo. anche l'evasore fiscale più incallito che c'è, il quale a queste condizioni usufruirà di questa rateazione. Ma il Sì. vero problema, a mio avviso, è un Sì. altro, è che intervenendo la rateazione dopo la cartella, Sì. vuol dire che in ipotesi di omesso versamento, quindi immaginiamo il caso classico, l'imprenditore che deve versare 10.000 euro, non ha i soldi e purtroppo non versa. Intervenendo la cartella, questo imprenditore va a pagare 10.000 più il 30%, che sono quindi 13.000, più gli interessi che sono tantissimi, più l'aggio della riscossione che a oggi, al di là insomma, di quello che c'è scritto nella norma perché dovrà essere attuata, c'è Sì, un 8%, cioè questo sì. signore va a pagare 14.000 euro più gli interessi su Errotti. 10.000. Facendo invece questo analogo intervento non con le cartelle, ma con l'avviso bonario, cioè a dire quando l'amministrazione, quando si accorge che il contribuente non ha versato l'IVA, gli invia un avviso e gli dice: caro contribuente, tu non stai versando le imposte. In questo caso la sanzione non è al 30, ma al 10 e soprattutto non c'è l'aggio della riscossione. Ecco, Certo. se si voleva e se si vuole veramente aiutare queste posizioni degli imprenditori in difficoltà, bisognava e bisogna, secondo me, probabilmente intervenire proprio in questa fase, cioè aumentare lì la rateazione. Consideriamo che oggi lì la rateazione è di 20 rate, però ha un vantaggio clamoroso perché il contribuente lì non paga l'aggio e non paga le sanzioni al 30%, per cui Certo. anziché 20 forse è il caso di toccare quella rateazione e di portarla da 20 a 30, a 40. Vabbè, comunque diciamo che, dottor Iorio, c'è sempre spazio e c'è sempre tempo per migliorare, diciamo, quindi Sì, questo bene, sono sicuramente. i primi E passi, speriamo che, anche come ha detto il ministro Saccomanni, ci sia sempre più attenzione alle esigenze di quei contribuenti che sono in difficoltà e quindi speriamo che tutte queste migliorie possano quantomeno arrivare in futuro, insomma. sì, però vede, questo intervento, perché ripeto, le cose vanno dette, Sì. dà molto l'idea che è un intervento a voler portare il contribuente comunque ad aspettare la cartella e pagare a Equitalia. Il Certo. problema andrebbe risolto prima, cioè prima che arrivi la cartella, perché se no Certo, aumentano, certo. il dottor Moria ce lo può spiegare bene, aumentano costi su costi, allora perché Certo. non rateizzare di più prima? Forse c'è una volontà, non so quanto sia politica, di far sì che Equitalia continui, insomma, a fare questo lavoro, però in Allora, realtà bisogna risolverlo certo, prima no, il il suo problema. discorso è chiarissimo. Poi torneremo anche su Equitalia e la possibilità invece di dare la riscossione ai privati. Paolo dalla provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Guardi, io sono 65 anni che lavoro. Sì. Ne ho 78 Scusi, prima ho detto 50 anni perché ho sempre detto 78 quando vi ho chiamato e non mi avete messo in linea, dico magari un vecchio merita un tubo. Senta, io in 65 anni che lavoro, purtroppo adesso ero un ragazzo, facevo il garzone, sì. Poi mi sono messo a lavorare perché sono un amante dell'arte, così sono andato in America. Ho comprato quadri, ho rivenduto, eccetera, poi è entrato qualcuno con me che mi sovvenzionava, sì. E tutto quanto, adesso insomma a me è arrivata una multa di 2,5 milioni, hanno fatto con i conti che hanno fatto loro, io non ho questa cifra, non l'ho mai avuta, è certo che ho lavorato abbastanza, però con i soldi degli altri, e non è che si possa quantificare il guadagno, perché io se compravo un quadro metti di Picasso metti per 1,000,000 e lo rivendevo il giorno dopo, se prendevo 1,030,000 euro, no, qui hanno calcolato chissà cosa, chissà come, e anche dal dare e l'avere sui conti correnti che ho, se ho avuto un'entrata di 10 milioni, ho un'uscita di 10 milioni, un'entrata di 10,300,000, significa che ho guadagnato 300,000. Certo, invece, allora signor Paolo, questo lo capisco, io vorrei però capire da lei il punto, lei vorrebbe sapere se può a questo punto però trattare con Equitalia, perché comunque lei la multa è arrivata, quindi in qualche modo dovrà venire a patti per il pagamento di questa multa, se ho capito bene il senso finale della sua domanda. Allora, cerchiamo di allargare un po' il discorso. Dottor Morina, chi si trova a ricevere una multa di un importo così grande, in questo caso è veramente enorme, ma comunque ci sono importi di una certa consistenza, che possibilità ha di trattare con Equitalia per il pagamento? Ma ritengo che per ora il lettore, e questo darà conferma pure Antonio Iorio, che saluto ovviamente, siamo ancora in una fase preliminare, mi spiego, è un accertamento da indagini finanziarie che gli hanno fatto al nostro ascoltatore, il quale ha avuto un'indagine abbastanza devastante perché hanno fatto la somma dei prelevamenti con i versamenti. È chiaro che questo è un discorso che deve chiarire in commissione tributaria, ancora siamo in una fase precedente a quelle che sono le cartelle, per cui lui ha avuto un'indagine in cui gli hanno messo 10,300,000, come ha detto lui, di versamenti tutti incassati, 10 milioni di prelevamenti magari possibilmente tutti incassati, totale evasione 20,300,000. Naturalmente non è così, ha ragione il nostro ascoltatore nel dire che la differenza, il vero incasso, il vero reddito suo è 300,000 euro, sicuramente, ma ripeto, questo lo saprà lui meglio di noi, qualche piccola dimenticanza l'avrà fatta lui nel non tenere regolarmente queste cose, però naturalmente siamo in una fase molto, cioè che precede certamente l'accertamento esecutivo, e quindi gli arriva pure l'avviso di pagare entro 60 giorni una cartella che non potrà mai pagare, perché parliamo di milioni e milioni di euro, 10 milioni di sanzioni e interessi, arriviamo a cifre dell'otto. Per cui il consiglio che possiamo dare, che sicuramente lui avrà seguito, chiedere un'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'accertamento e poi vedere avanti in base ai giudici tributari, dimostrando con correttezza che il suo vero reddito, la sua evasione eventualmente non è 20,300,000, ma come ha detto lui, la differenza tra 10,3 e 10 milioni. Certo. Le 12:35 minuti, stiamo parlando di Equitalia, stiamo parlando delle rate, di come appunto approcciare ad una cartella che ci arriva e che vogliamo appunto dilazionare nel tempo. Marco dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ci dica. La domanda è molto semplice, noi abbiamo una rateizzazione in corso. Sì. È possibile rimodularla secondo il nuovo decreto? E se non fosse possibile rimodularla, la norma della possibilità di non pagare per 8 rate può essere comunque utilizzata? Allora, mi fa particolarmente piacere girare la sua domanda perché sono arrivati anche degli SMS a questo proposito di persone che hanno già una rateizzazione in corso e vogliono capire se queste nuove modalità sono applicabili anche al loro caso. E allora girerei questa domanda a Tonino Morina. Ma sicuramente sarà così, nel senso che noi stiamo parlando, i nostri ascoltatori sono molto attenti, il Sole 24 Ore tutti i minuti, tutti i giorni fa diciamo delle pagine intere su questo argomento, sicuramente sarà così, però dobbiamo aspettare A, il provvedimento definitivo, B, le regole attuative di Equitalia e degli agenti della riscossione, ma naturalmente siccome si sta facendo di tutto per agevolare i cittadini e i contribuenti che sono in difficoltà economica, e da ritenere per il cosiddetto principio di legalità la regola nuova, cioè che è più favorevole al contribuente, sarà applicabile, quindi non ci sono problemi. Quindi immaginiamo che lo stesso discorso valga anche per le 8 rate, le 7 rate non pagate. Insomma. Le regole nuove dovrebbero valere, d'altra parte ha ragione Antonio Iorio quando poco fa ha segnalato che sarebbe opportuno anche intervenire sugli avvisi bonari, i cosiddetti avvisi che precedono le cartelle, perché non sarebbe male allungare la rateazione degli avvisi bonari, ma questo è un invito che possiamo fare al legislatore come il Sole 24 Ore ha fatto più volte. Paolo da Palermo, buongiorno anche a lei, ci dica. Buongiorno, il mio quesito è, penso sia leggermente diverso. Per quanto riguarda le multe, voglio dire, io circa un annetto fa ho subito, come dire, tre multe con l'autovelox, che a mio avviso sono delle vere e proprie imboscate, ma questa qua è un'altra trasmissione. Sì. Due le ho potute pagare. La terza, non avendo i soldi, l'ho pagata oltre i 60 giorni di ritardo e da 80 euro siamo andati quasi a 200 euro, quindi volevo sapere come mai per le multe c'è questo, allora, questo raddoppio quasi... Allora, sì, abbiamo capito la sua domanda, signor Paolo. Antonio Iorio, io volevo anche allargare un pochino la domanda del signor Paolo per capire un po' che cosa succede quando uno va magari un pochino oltre i termini, quindi oltre le scadenze prestabilite. Sì, in realtà il problema è che ci sono dei termini che sono perentori, cioè bisogna purtroppo osservarli. Perché si ha l'impressione che la multa sia più che raddoppiata o raddoppiata? Sì. Perché in realtà quando si paga entro i 60 giorni anche la sanzione è agevolata, quindi non so, si paga spesso un terzo della sanzione, per il codice della strada si paga il minimo molte volte, perdendo la possibilità di pagare nei 60 giorni, bisogna innanzitutto stimare che la contravvenzione non è più nella misura minima ma spesso nella misura mediana ovvero massima, ai fini tributari diventa intera, quindi da un terzo bisogna aumentare di altri due terzi, poi ci sono tutti gli oneri legati all'attività di riscossione, perché come si diceva Equitalia almeno fino all'anno scorso percepivo un 9% sull'aggio, comprese, calcolate anche sulle sanzioni e in più sugli interessi di mora, quindi purtroppo è verosimile che questa multa per pochi giorni presenti poi un conto di una lunga così superiore. Così salato, certo. E sì, è un po' il discorso che si faceva prima, cioè se basti pensare che se io non verso 1000 euro d'IVA, purtroppo la sanzione se non la verso è del 30%, con quell'avviso bonario che si diceva prima diventa del 10%, ma se perdo quell'occasione è il 30%, e in questo onestamente non è colpa di Equitalia o della gente della riscossione, è una norma che prevede più o meno giustamente che alla scadenza di un certo termine di cui uno può usufruire si perde anche l'agevolazione sulla sanzione ridotta, e che poi tutti se la prendono con Equitalia perché è l'ultimo anello della Equitalia, catena, no? Quindi per forza. Ovvio. Esatto. Allora, Antonia da Bari, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Ci dica. Ho 62 anni, senta, fra 3 anni andrò in pensione. Facendo le rate dell'INPS mi potrò andare in pensione o si finisce la rateazione? Allora, forse questa domanda però non è in linea esattamente con quanto... con l'argomento di oggi, perché la signora sta parlando di pensioni e ne parleremo in un'altra puntata. Io darei a questo punto la parola invece a Renato da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ci dica. A tutti. Niente, brevemente spiego. Io ho ricevuto nel 2010, fine 2010, una cartella da Equitalia, no? Sì. Dove diceva, mi richiedevano 750 euro. Sì. Per degli emolumenti, delle voci di soggetti a protezione separata, no? Io a quell'epoca lavoravo presso una cooperativa e ho telefonato per mettermi, insomma, per tenere un appuntamento con loro, il quale ha mandato poi un appuntamento per il 17 dicembre del 2010 a Milano. Mi sono recato, il funzionario mi ha detto: guardi, purtroppo il giorno prima era scaduta la termine. Mi ha detto, è scaduto ieri il termine. Cioè, loro hanno mandato un appuntamento il giorno dopo che è scaduto il termine. Questi sono delinquenti, guardi. Sono dei delinquenti. Io c'ho ancora il contenzioso da allora, che non so a quanto siamo arrivati. Allora, signor Renato, ovviamente lei può fare tutti i commenti del caso, io però giro a questo punto perché è sempre utile anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando trarre beneficio dalle domande degli ascoltatori, dai dubbi degli ascoltatori e cercare di allargare un pochino il raggio. Antonio Iorio, che cosa si può fare quando ci si trova di fronte a, in questo caso, non so come la vogliamo definire, comunque è stato uno sbaglio, un errore commesso non dal signor Renato, gli è stato dato un appuntamento oltre i termini. Sì, bisognerebbe ovviamente uno capire chi ha dato l'appuntamento, perché in realtà purtroppo siamo alle solite, Equitalia manda la cartella, ma in questo caso è l'ente impositore, cioè chi sa come stanno i fatti, se ci sono errori, in realtà non è Equitalia ma nella specie l'Agenzia delle Entrate, quindi bisognerebbe innanzitutto capire se l'appuntamento l'ha dato l'Agenzia delle Entrate o Equitalia. Dopodiché, certo, se ci fossero delle prove, se ci fosse una mail in cui il funzionario dell'agenzia scrive al nostro ascoltatore e gli dice ci vediamo il giorno, venga nel mio ufficio il giorno tot, quando è palesemente evidente che i 60 giorni sono scaduti, devo dire che, insomma, un po' di malafede o un po', diciamo, di superficialità, ecco, diciamo più correttamente, forse c'è. Detto questo, ci sono, bisogna agire su due piani. Innanzitutto, come avrà fatto già il nostro ascoltatore, come diceva prima Tonino Morina, bisogna fare un ricorso in commissione tributaria. Contemporaneamente io suggerirei di provare anche se spesso non viene ascoltata, un'istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo, cioè che ha quantificato quanto lui va a pagare, chiedendo di annullare il tutto per i motivi che conoscerà l'ascoltatore e precisando anche che tutto ciò è avvenuto perché gli è stato dato un appuntamento oltre i 60 giorni. Quindi potrebbe essere, anche perché da quello che capisco gli importi non sono particolarmente elevati, che laddove l'amministrazione dovesse riconoscere l'errore potrebbe anche annullarlo nonostante sia pendente un ricorso, insomma. Allora, certo, chiarissimo quanto lei ci ha detto, che vale quindi a questo punto anche per, può valere anche per altri ascoltatori. Stefano da Roma, buongiorno. Buongiornata, c'è una domanda velocissima. Ci dica. Mi sto prestando a chiedere una rateizzazione per un qualcosa di mia colpa, quindi per carità non alzo nessun altra carta. Volevo sapere, visto la mia età, 63 anni, se mi presto a chiedere una lunga rateizzazione, c'è un limite di età per le lunghe rateizzazioni e nel momento in cui dovessi decedere, che cosa succede? Allora, ovviamente ci auguriamo di no, e questo mi sembra un'estrema razza da parte sua, però è domanda legittima. Tonino Morina, c'è un limite di età per chiedere la rateizzazione, diciamo, ma la durata della rateizzazione? 63 anni è molto giovane, quindi non c'è problema, limiti di età non ce ne sono, non ce ne sono limiti di età, rimane fermo un discorso di carattere generale, che nel momento in cui uno muore lascia il debito agli eredi delle imposte, le sanzioni invece non si pagano, per cui se uno ha un debito verso lo Stato, per dire, di 130.000 euro, di cui 100.000 imposte e 30.000 sanzione, morendo il contribuente agli eredi purtroppo lascia i 100.000 euro di debito delle imposte. Naturalmente se gli eredi rinunciano all'eredità vuol dire che non c'è nulla da prendere e a quel punto arrivato non c'è nulla da pagare. Certo, allora ovviamente noi ribadiamo, ci auguriamo che questa sia stata giusto così una specificazione valida per tutti, ma che non riguarderà certamente il nostro ascoltatore. Ci fermiamo per qualche istante perché dobbiamo dare le notizie per chi è in viaggio, ma voi restate con noi. Le 12.47 minuti, stiamo parlando della possibilità di dividere in più rate un debito con Equitalia. Luigi da Perugia, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Dunque, io circa 3 o 4 anni fa ho fatto l'antidazionamento della quota che dovevo pagare, che non avevo pagato, che praticamente l'ho fatta con Equitalia. Sì. E a un certo punto, nel 2012, l'8 gennaio 2012, ho avuto un brutto infarto. Sono stato in coma, in rianimazione, mi hanno operato e i dottori, i medici mi hanno detto che purtroppo dovevo stare molto calmo e dovevo riprendere il lavoro dopo 5-6 mesi. Sì. Nel frattempo Equitalia mi ha messo su un terzo che io avevo di una casa di miei genitori. Sì. Mi è arrivata una cartella dove dice che lì c'è un fermo di 30, 40, 50 mila euro. Sì. Adesso io non so quello che fare. Sono stato in Equitalia, ho portato la mia cartella clinica, io ho fatto vedere tutto quanto. Sì. Loro mi hanno detto, hanno stretto le spalle, mi hanno chiesto, si sono scusati, però non. Però non è cambiato niente. No. Allora, vediamo un po' se Antonio Iorio ci può aiutare in questa situazione. Ovviamente, al di là del caso del signor Luigi, che cosa, per il quale ovviamente ci dispiace, ma che cosa succede quando uno si trova di fronte a situazioni nella vita in cui si deve fermare per un tot numero di mesi? Allora, è verosimile che poi sono due aspetti. Il primo aspetto è che il funzionario normalmente sapeva che la norma, come si diceva con Antonio Morina, prevedeva fino alle modifiche di questi giorni che non pagando due rate si decadeva, probabilmente applicato e giustamente direi quella norma, però voglio dire, ogni norma c'è una sua eccezione, c'è un principio, voglio dire, generale, che è quello dell'esistenza nel nostro ordinamento della causa di forza maggiore. No? Certo. Qui se è provata, se è documentata, come mi sembra abbia fatto il signor Luigi, è verosimile che magari rivolgendosi a un livello un po' più alto del funzionario ci sia chi puntualmente si assuma la responsabilità di rimetterlo in termini. C'è poi l'altro problema che lui segnala, cioè dire, poiché io non ho pagato, Equitalia mi ha scritto verosimilmente, se ho capito bene, ipoteca sul terzo di casa. E questo purtroppo è un problema che permane e che resterà, soprattutto ora con queste norme, perché mentre fino alle nuove norme, queste qui del decreto del fare, era convinzione pacifica, anche perché l'aveva detto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che l'ipoteca doveva essere strumentale alla vendita dell'immobile, quindi non si poteva fare ipoteca al di sotto del valore per il quale si poteva vendere l'immobile. Sì. Oggi sì. Invece purtroppo viene chiarito che l'ipoteca si può fare anche se non si vende l'immobile, quindi cosa succederà? Che verosimilmente quell'ipoteca resterà lì e se lui inizierà o verrà rimesso in termini, come tutti ci auguriamo, per quella radiazione, facendo il recupero ciò che ha pagato, è verosimile che facendo poi un'istanza gli tolgano l'ipoteca. Però ecco, questo caso ci dà lo spunto per ricordare che attenzione, perché tutto ciò che è stato giustamente pubblicizzato anche sulle pagine del Sole, cioè l'impossibilità in futuro di vendere l'immobile, soprattutto quando è adibito a uso abitativo, è l'unico immobile, riguarda la vendita dell'immobile, non l'ipoteca. Quindi l'ipoteca la possono continuare a fare. Questo che vuol dire? Vuol dire che se io ho bisogno di avere garanzie bancarie e quindi voglio dare il mio immobile, devo stare attento, perché se ho l'ipoteca di Equitalia, nessuna banca poi mi darà queste garanzie. Certo. Dante da Roma, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Ci dica. Intanto io sto in attesa di una sentenza della Commissione Tributaria di primo grado, perché io rivendico la mancanza di un avviso bonario da parte del fisco per un accertamento di trattazione separata che io non posso autoliquidarmi all'inizio. Quello che dico, io ho chiesto a Equitalia la rateizzazione assieme alla legge d'accesso sulla trasparenza. L'hanno rigettata perché non c'era il documento d'identità. Diciamo, questo è possibile o meno? Allora, grazie per la risposta. Grazie a lei, signor Dante. Io giro la sua domanda a Tonino Morina. In questo caso l'ascoltatore ha chiesto la rateizzazione, gli è stata rifiutata perché non c'era il documento d'identità. Come si può comportare a questo punto? Ma a questo punto è arrivato, penso che nei prossimi giorni, dopo che arriveranno le direttive, di Equitalia e del legislatore, dopo che finisce, diciamo, questo decreto del fare, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il consiglio che possiamo dare è di fare e di ripetere la nuova, la nuova istanza di rateazione con le nuove regole, quindi dovrebbe essere rimesso in bonus serenamente e tranquillamente, quindi non ci sono problemi, soprattutto se parliamo di debiti fino a 50.000 euro. Allora, a proposito dell'abitazione, volevo leggere un sms di un ascoltatore che ci ha scritto: contento per tanti italiani, ma sono arrabbiato e deluso, non si poteva fare prima, avrei potuto salvare e non svendere la casa. Io velocemente chiedo a Antonio Iorio di tornare sul tema della prima casa, della casa di abitazione, perché è un tema che comunque ha suscitato molti sms ed è un tema di sicuro interesse, quindi cerchiamo di capire bene qual è la situazione dopo questo decreto del fare. Sì, quindi dopo il decreto del fare c'è un principio fondamentale che e più che la prima casa, diciamo meglio, come dice la legge, l'unico immobile di proprietà del contribuente, con esclusione di abitazioni di lusso, se sì. Questo immobile è utilizzato, l'unico quindi, a uso abitativo e lui, il contribuente, vi risiede anagraficamente, non può essere venduto. Quindi Equitalia non può fare la cosiddetta esecuzione forzata. Sì. Può fare ipoteca, abbiamo detto, ma se il debito supera 120.000 euro, ma non può fare esecuzione forzata. Ecco, anche questo è importante, se il debito supera 120.000 euro. Ecco, no, attenzione, i 120.000 euro, ecco, invece, euro, riguardano tutti gli altri immobili. Quindi praticamente in futuro avremo una distinzione, gli immobili in cui ci si abita e ci sia la residenza, che non possono essere venduti. Sì. Tutti gli altri immobili che non hanno questi requisiti invece, per essere venduti da Equitalia, il debito del contribuente deve superare i 120.000. A fronte di tutto questo resta, come si diceva prima, la possibilità di scrivere ipoteca. Che invece riguarda i 20.000 euro. Però, ripeto, l'ipoteca è una garanzia che scrive Equitalia per evitare che il credito che vanta possa essere perso. Esatto. E questa è pure l'altra novità importante, che probabilmente si ricollega all'SMS del nostro ascoltatore, sì, è che con le nuove norme c'è una sorta di coinvolgimento attivo maggiore rispetto al passato del debitore nella vendita del proprio immobile. E questo nel senso che lui addirittura può chiedere al giudice la nomina di un ausiliario qualora ritenga il valore dell'immobile superiore a quello stimato. Certo. E questo, diciamo, probabilmente potrebbe contribuire un po' a far sì che il debitore incassi qualcosa in più. Certo, perché ricordiamoci che se lui deve 200.000 euro a Equitalia e la casa viene venduta a 250, i 50.000 devono essere restituiti. Però certo, se la casa, come normalmente succede, viene venduta a un prezzo inferiore al debito, certo, non guadagnerà. Ovviamente. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Tonino Morina, grazie a Antonio Iorio per essere stati con noi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.